Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Finito. Potremmo avere in comune una specie di simbolo, un braccialetto rosso. Braccialetto in alto! Guadalanca! Probabilmente sapete già qualcosa di Albert e Spinosa, oppure avete sentito parlare del suo lavoro, perché lui è l'autore di Braccialetti Rossi, il libro che racconta le storie di un gruppo di ragazzini ricoverati in ospedale per motivi diversi, che fanno amicizia e affrontano il loro destino e le loro malattie. È un bestseller che è diventato una fiction di successo nella Rai in Italia, ma che soprattutto è stata prodotta negli Stati Uniti da Steven Spielberg. Ed è un bestseller che nasce da una storia vera, perché Albert Espinosa ha lottato contro il cancro fin da ragazzino, ha conosciuto e fatto amicizia con altri ragazzi ricoverati e con loro ha fatto un patto: dovevamo dividerci la vita di quelli che non ce l'avrebbero fatta e portarla dentro di noi. E lui dice: nella distribuzione mi toccarono 3,7 vite più la mia. Cancro. Mi piace questa parola, cancro. Mi piace perfino tumore. So che può sembrare macabro. Del resto ho passato molti anni a stretto contatto con questi due sostantivi. Non ho mai pronunciato con orrore parole come cancro, tumore, osteosarcoma. Ci sono cresciuto accanto e mi piace pronunciarle ad alta voce, urlarle ai quattro venti. Sono convinto che finché non gli dai voce, finché non lo accogli nella tua vita, difficilmente potrai accettare ciò che hai. Beh, da brividi, e comunque ti mostra da quante diverse angolazioni si possa vedere la vita. Albert nasce il 5 novembre del 1973, ha un fratello maggiore che oggi vive in Messico, a Puebla, che ha due figli, e poi ha una sorella minore che vive a Barcellona e che lo ha reso zio di due gemelline che oggi hanno 3 anni. Comunque da bambino Albert è un ragazzino come tanti ed ha una grandissima passione, il calcio. Mi gustava molto il football, mi piaceva molto il calcio. Ero pazzo del calcio. Da bambino passavo tutto il tempo a giocare a pallone. Giocavo nelle giovanili del Barça. Dico sempre che ero bravissimo, ma non lo posso dimostrare a nessuno. Mi divertivo soprattutto così. Era quello che mi caratterizzava di più. Chi sarà lo che mi definiva? Beh sì, oggi Albert Espinosa non può dimostrare quanto era bravo con il pallone, perché a 14 anni la vita tra gli spogliatoi e le giovani leve del Barcellona si interrompe bruscamente. Per 10 anni Albert combatterà con il cancro fino al compimento del suo 24esimo anno di età. Non è stato ricoverato per tutto quel tempo, ma in quegli anni è stato in diversi ospedali per 4 tumori diversi. Parliamo di un tumore alla gamba, poi di nuovo uno alla gamba, poi di un tumore al polmone e uno al fegato. Eppure, e lui lo scrive nel suo libro Braccialetti Rossi, per Albert quei 10 anni sono stati un periodo felice. Lui dice: forse i più belli della sua vita. Cancro e felicità, felicità e cancro, sembrano due parole inconciliabili, e invece nella vita di Albert lo sono, e come. Perché Albert dice: è vero, il cancro mi ha tolto molte cose, mi ha tolto una gamba, un polmone e un pezzo di fegato, però me ne ha date molte altre. Cosa può dare un cancro? Beh, intanto ti permette di capire spesso le persone che hai intorno, ti fa conoscere i tuoi limiti, il tuo fisico, e ti toglie la paura di morire, che forse è la cosa più importante in assoluto nella vita. A 15 10 anni, i medici spiegano a Albert che dovrà perdere la gamba sinistra. Il giorno prima dell'intervento il medico gli dice: fai una festa per la tua gamba, invita tutti quelli che hanno avuto a che fare con lei, una festa di addio per una gamba. Ti ha sostenuto? Ora che se ne va, tocca a te fare qualcosa per lei. E Albert fa questa cosa. A 15 anni chiama tutte le persone che hanno avuto a che fare con la sua gamba e alla fine dice: vi voglio invitare alla festa di addio per la mia gamba, non portare niente, vieni a piedi così ti sgranchisci un po'. Insomma, è una cosa importante che chiaramente lo aiuta a sdrammatizzare, e Albert capisce l'importanza dell'umorismo, capisce che è una soluzione per molti conflitti. A quella festa insolita Albert invita molte persone, invita un portiere di una squadra di calcio, una ragazza alla quale fare piedino sotto il tavolo, un tizio con cui aveva fatto escursionismo, i suoi amici. Bene, Albert dice: è stata una festa bellissima, forse la migliore che io abbia mai dato e di sicuro la più originale. Beh, all'inizio sono tutti un po' in imbarazzo, poi iniziano a parlare con la sua gamba sinistra, ognuno racconta un episodio legato alla motorietà, la toccano per l'ultima volta. Il giorno prima di entrare in sala operatoria Albert ha un'idea, vuole fare il suo ultimo ballo a due gambe. Lo fa con un'infermiera, lei gli dice di sì, c'è un problema, non c'è la musica. Allora mettono il CD di un certo Machine, che è un cantante del quale i ragazzi sono dei fan, si schiaccia play e il CD inizia a girare. La canzone è Esperame e nel cielo. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Non potevo chiedere canzone migliore per quel momento, per celebrare il finale. L'ho ballato 10 o 12 volte con quell'infermiera. Sono stati i miei ultimi 12 balli, non volevo più smettere. Non volevo sentire altro. Desideravo solo che la musica di Machine si fondesse con la mia mente, fino a diventare un suono continuo, una colonna sonora che copriva ogni cosa. Non è bellissimo quando una musica si ripete tante di quelle volte che non senti più le parole né le note. Diventa come il vento, qualcosa che c'è e di cui sei consapevole, ma che non hai bisogno di ascoltare, solo di sentire. Poche ore dopo Albert è su una barella e c'è un infermiere che lo sta portando in sala operatoria. Lui è concentrato su quello che avverrà alle sue ossa e al suo corpo. L'infermiere è uno di quelli buoni, di quelli che considerano l'elemento umano in questi casi. Gli dice: non è facile ridere, non è facile respirare, ci vorrebbero delle scuole per ridere e respirare. Quelle parole rimangono nella mente di Albert. In una delle sue liste lui consiglia: cerca un respiro, espirando, inspirando, espirando, riflettendo sul modo di far entrare l'aria nel polmone. E suggerisce di divertirsi con questo gioco. Scegli una risata e pensa che è qualcosa che ti raffigura, che ti definisce. Sentiti fiero della tua nuova acquisizione e mostrala alla gente. E ancora scrive: rinnova la tua risata ogni 2 anni, così come lui ogni 2 anni cambia la protesi alla gamba. E lui dice: ho la fortuna che insieme al mio modo di camminare cambia tutto il resto. Anche i polmoni si trasformano, invecchiano. Bisogna anticipare, essere noi a stabilire in che modo vogliamo ossigenarci. Insomma, dice Albert, cammina, respira, ridi, divertiti. Quel consiglio di quell'infermiere che lo accompagnava in sala operatoria, Albert lo ricorda ancora oggi. Quel dialogo non lo stava annoiando affatto. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Albert Espinosa, oggi conosciuto soprattutto per essere l'autore di Braccialetti Rossi, e siamo arrivati al momento in cui Albert, ancora ragazzino, si risveglia dall'intervento senza una gamba. Bene, Albert non è triste, aveva detto addio alla sua gamba sinistra, aveva pianto, riso, ci aveva ballato sopra e le aveva organizzato una festa stupenda. Secondo lui le perdite possono essere anche positive, e questo è dovuto al fatto che ha dato alla sua gamba un addio talmente fatto bene che anche il fantasma della sua gamba se n'è andato. Le perdite sono positive, dice, ogni perdita è una conquista. Questa è la prima di una serie di conquiste e la prima cosa inserita in una delle sue tante liste, perché i suoi libri sono anche una collezione di liste, un vademecum per vivere in maniera diversa. Ha una fede assoluta lui nelle liste, le adora, è un ingegnere chimico che ama l'arte e un numero in particolare. Io credo los números, más que la astrología creo los. Il mio numero è il 23 e mi ha portato molta fortuna. Mi sono successe cose molto importanti il 23. Ho anche perso la mia gamba il 23. Più che nell'astrologia, credo nella somma dei numeri della tua data di nascita e della tua ora di nascita. Nel mio caso la somma è proprio 23. Credo molto nei numeri. Io credo molto los números. E se ami i numeri, non puoi non amare anche le liste. Ed è proprio nei suoi libri che troviamo una serie di liste, di concetti, idee, emozioni, liste piene di felicità, di scoperte, magari brevi, che però lo fanno vivere meglio e su cui impera una massima su tutte. Se credi nei sogni, si avvereranno. E io non ho potuto esimermi dal chiedergli di farmi una lista delle canzoni che più gli piacciono, oltre a Espérame e Nel cielo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. A 16 anni Albert vive il momento più difficile. I medici dicono a lui e ai suoi genitori che ha 3 probabilità su 100 di sopravvivere e che a Minorca c'è un ospedale dove avrebbe potuto trascorrere l'ultimo mese della sua vita. Albert ci va, però decide che deve lottare e da quel giorno lui ci torna molto spesso. Ci torno ogni anno. Ci andai la prima volta quando mi dissero che avevo il 3% di possibilità di sopravvivere. Avevo 15 anni e decisi di passare a Minorca quello che credevo fosse il mio ultimo mese di vita con i miei genitori. Poi però la lotta è continuata e la vita è andata avanti e per me è importante tornarci ogni anno per un mese. Le isole mi hanno sempre portato fortuna. Il mio ultimo libro l'ho scritto a Ischia l'estate scorsa. Penso che le isole mi diano sempre una grande energia. Sì, ho passato l'estate in Italia e Ischia è il luogo in cui è stato girato proprio il talento di Mr. Ripley. Sono anche stato nella casa di Visconti, la Colombaia. Ischia è un luogo che ti ispira molto, che ti dà molta energia positiva. Che una che sapeva come te via, come energia positiva. La vita in ospedale prosegue nella sua quotidianità e in quello scorrere di ore c'è sempre la sua passione di ragazzo, il calcio. E in quegli anni ci sono i mondiali, siamo nel 1994. Sì, li ho visti. La partita che mi ricordo meglio è Italia-Spagna del 94 e le polemiche per la gomitata di Tassotti a Luis Enrique, che ora è proprio l'allenatore del Barça. A quei tempi giocava uno dei miei calciatori preferiti, Totò Schillaci, che era stato capocannoniere. Mi piace molto il calcio italiano e Schillaci è uno dei miei calciatori preferiti. Schillaci è uno dei miei giocatori preferiti. Beh, una passione che non si è mai spenta. Chissà se Albert ha visto anche la partita in cui l'Inter si è qualificata battendo il Barcellona in semifinale. Sì, sono ancora appassionato di calcio. La mia casa a Barcellona è proprio davanti al campo del Barça. Lo vedo appena mi sveglio. Sono ancora molto tifoso, è la mia squadra preferita. Non gioco più a calcio, ma lo seguo molto. A un certo punto ad Albert i medici dicono che non sarebbe più dovuto tornare in ospedale. E quello è stato un momento particolare per lui. Ma come? Ora che sono diventato bravissimo a lottare contro il cancro, i medici mi dicono che sono sano? Albert è rimasto in uno stato di stupore. È rimasto smarrito per 6 ore, poi è impazzito di gioia. Niente più ospedali, niente più radiografie, ne ha fatte oltre 250. Niente di niente. Niente esami del sangue, niente controlli, è un sogno che diventa realtà. Eppure Albert, il suo tumore, non l'ha mai dimenticato. Pensava di metterlo in un cassetto chiuso, di non pensarci più. Invece gli insegnamenti che gli hanno dato quei 10 anni di malattia sono stati e sono tuttora alla guida della sua vita, ogni giorno. È proprio quello che ha imparato grazie al cancro, è quello che poi ha messo nel libro Braccialetti Rossi, Il mondo giallo, che è stato pubblicato in Italia da Salani, ma che è diventato un bestseller in tutto il mondo. Una specie di compendio di quanto Albert ha imparato dal cancro e di tutte le scoperte fatte grazie agli amici che hanno lottato come lui contro questa malattia. I compagni di stanza sono fondamentali. Noi ragazzi malati di cancro, ci eravamo soprannominati i capelloni, avevamo stretto un patto. Ci saremmo divisi la vita di quelli che non ce l'avrebbero fatta. Un patto indimenticabile, straordinario. Comunque fosse andata, avremmo continuato a vivere attraverso gli altri, sostenendoli nella guerra alla malattia. Eravamo sicuri che quelli che morivano lo indebolivano ancora di più, facilitandoci la vittoria. Nei miei 10 anni di cancro mi sono toccate 3,7 vite. Quindi, a scrivere questo libro, siamo in 4,7. Ossia, le 3,7 persone di cui ho ereditato la vita ed io. Quelle 3,7 persone sono sempre dentro di me e cerco costantemente di rendere loro giustizia. E se a volte è difficile vivere una vita sola, pensa a cosa vuol dire averne 4,7 sulle spalle. Perché i miei amici braccialetti sono usciti quasi tutti. È rimasto solo Leo. Il falco e il gabbiano. E io sono sempre Enrico Ruggeri e vi sto raccontando la storia di Albert Espinosa. Oggi è un uomo di 40 anni, ma stiamo parlando di un periodo della sua vita, quello dai 14 ai 24 anni, in cui Albert vive una battaglia plurima contro il cancro, contro 4 diversi momenti e 4 diversi tumori. Lascia in ospedale una gamba, parte del suo fegato, parte dei polmoni, eppure dice che quelli sono i 10 anni più belli della sua vita e ne trae giovamento fisico e morale. Guarisce e scrive Braccialetti Rossi. Io mi chiamo Leo. Simpatico Leo. E anche un po' stronzo. So che è un caratteraccio. Però è simpatico. È simpatico. Dicono tutti così. La vita in ospedale è vissuta a stretto contatto con medici, infermieri e ragazzi come lui, come Albert, ognuno con il suo problema. Però tutti pieni di vita. Lui è ricoverato al quarto piano dell'ospedale e sogna quello che non c'è, il divertimento. I ragazzi dicevano: non moriremo di cancro, ma di noia. Perché tutti pensano che in ospedale la vita si fermi, che tu non abbia bisogno di divertirti, ma è esattamente il contrario. È la tua vita normale che si ferma e quindi hai bisogno di fare molte più cose. Credo che l'amicizia sia la cosa più importante. Ogni rapporto di amicizia è differente e mentre tu cambi, i tuoi amici cambiano con te. Da qui nasce anche la concezione dei gialli, los amarillos. Ci sono gli amici e ci sono i gialli, le gialle. Credo che l'amicizia sia alla base di ogni mia storia, anche quella di Braccialetti. I ragazzi non smettono mai di essere degli amici e dei gialli che si incontrano in ospedale. Albert ha la fortuna di incontrare compagni di stanza straordinari che diventano come fratelli a ore, a giorni o a mesi, sconosciuti che si ritrovano in pigiama azzurro vicino a lui e che diventano in poche ore amici intimi, perché in quei casi nel giro di poco tempo si crea un legame profondo. Il primo dei compagni di stanza si chiamava Antonio. Era un ragazzo di 19 anni quando Albert ne aveva 14. Antonio lo faceva morire dal ridere, era un vulcano di energia. Quando è morto gli ha lasciato la sua tastiera dicendogli che un giorno sarebbe stata quotata milioni e Albert non se n'è mai separato e ancora la suona. E oggi dice che è sicuro che Antonio gli abbia trasmesso una parte della sua forza. Credo che l'amicizia sia la cosa più importante. Ogni rapporto di amicizia è differente e mentre tu cambi, i tuoi amici cambiano con te. Da qui nasce anche la concezione dei gialli, los amarillos. Ci sono gli amici e ci sono i gialli, le gialle. Credo che l'amicizia sia alla base di ogni mia storia, anche quella di Braccialetti. I ragazzi non smettono mai di essere degli amici e dei gialli che si incontrano in ospedale. Dal libro Braccialetti Rossi è nata una fiction che in Italia è andata in onda su Rai 1 l'anno scorso e che ora è alla seconda stagione. Credo che la versione italiana sia speciale per due cose. Perché gli attori che la interpretano hanno qualcosa di molto interessante. Sono bravissime persone, hanno qualcosa di vero. Risplendono di una felicità, di un'onestà magnifica. E poi la regia è perfetta, incredibile, con tanta luce, anche grazie alla produzione di Carlo Degli Esposti. La forza di quei colori riflette la felicità che io provavo quando ero in ospedale. Io credo che questa felicità che mi viene in ospedale. Puntata dopo puntata si entra in un ospedale dove c'è una voce fuori campo, che è quella di Rocco, un bambino che si trova nel suo letto in coma da 8 mesi. È lui che ci fa conoscere i suoi compagni, è lui che ci fa conoscere Leo, a cui hanno amputato una gamba a causa di un tumore, e che rappresenta Albert. Il suo compagno di stanza Vale, calvo come lui, Chris, una ragazza che soffre di anoressia, e poi Tony, uno scugnizzo ingessato dalla testa ai piedi dopo una caduta in motorino, e Davide, che si è sentito male giocando a pallone e ha scoperto che il suo cuore non funziona bene. Sono loro i protagonisti della prima serie, sono loro che creano in ospedale un gruppo che chiameranno proprio così, braccialetti rossi, come quelli che portano al polso dopo ogni operazione. Il set è l'ospedale di cui Albert ha ricordi molto vividi. Guarda, io credo che sia molto bonito perché ho dei ricordi bellissimi. In ospedale avevamo stretto un patto di vita. Avremmo vissuto le vite di chi perdevamo. Le avremmo vissute per loro. Nei 10 anni in cui sono stato malato, ho vissuto altre 3,7 vite, che con la mia fanno 4,7. Penso che quando vedi che la serie funziona e arriva alla gente, è come se queste 4,7 persone siano ancora vive, che la lotta che abbiamo fatto si riflette in tutti i paesi in cui la serie viene trasmessa. Così possiamo cambiare un po' l'idea del cancro e la tristezza che lo accompagna. E penso che chi si trova in ospedale possa decidere di lottare un po' di più o capire meglio la sua lotta. O si dà cuenta che la gente intende mejor su lucha. È un successo. La prima serie della fiction italiana viene seguita da milioni di telespettatori. Ora in onda la seconda serie. Il produttore è sempre lui, Carlo degli Esposti, lo stesso del commissario Montalbano. È lui che, dopo aver visto la versione originale durante un viaggio in Spagna, ne rimane folgorato. E dopo il successo della prima serie non ha avuto dubbi sulla seconda. Questo gruppo di ragazzi, ma soprattutto la scrittura che c'è dietro di Albert Espinosa, ha trasformato dei normali rapporti in una grande banda. È una banda che ha un merito complessivo del successo, in cui vedi coinvolto intorno a questo il meglio della RAI. Io sono convinto che quando i progetti partono da una grande scrittura, arrivano al pubblico, trasformano immediatamente e scelgono il meglio che c'è intorno. Sul set è stato sempre una grande avventura, in una consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Beh, Braccialetti Rossi è un successo particolare, perché è un successo ottenuto affrontando dei temi tabù come il tumore, la morte, addirittura la morte di persone così giovani, così come vuole Albert Espinosa. Il regista è Giacomo Campiotti, che racconta: per girare questo film mi sono documentato, ho parlato con volontari, operatori ospedalieri, ho scoperto che i bambini e gli adolescenti accettano molto più facilmente la malattia dei loro genitori e si fanno forza, perché in quei casi bisogna tirare fuori il meglio da ogni giornata. Il successo è stato incredibile e ha stupito lo stesso Campiotti. Il successo in qualche modo ci ha sorpreso, nel senso che io non pensavo che il pubblico recepisse un programma così forte, così coraggioso, e mi sono piacevolmente sbagliato. Questo fa capire che quando la televisione ha il coraggio di fare servizio pubblico, cioè di parlare di temi forti in maniera anche diretta, vince. Questo successo così è stato profondo proprio nella società civile. Noi abbiamo ricevuto migliaia e migliaia, come avete visto anche voi, di lettere, messaggi proprio dalle persone malate, dalle loro famiglie, alla gente che lavora negli ospedali, che ci dicono che le cose sono un po' cambiate anche negli ospedali, cioè che c'è più gente che va a trovare i malati, le strutture in tanti posti sono un po' aperte, no? Perché spesso l'ospedale è considerato quasi come una prigione, invece dopo i braccialetti si circola più facilmente. Chi fa clown terapia o altri tipi di sostegno ci dice che abbiamo aperto molte porte, più noi col film, di quanto loro si fossero riusciti a fare in tanti anni. Quindi per me è un piacere enorme, così, diciamo, quando senti che il tuo lavoro diventa anche utile oltre che piacevole, è la cosa più bella che può succedere, diciamo, a un regista, credo. E quindi la seconda serie siamo partiti con un grande senso di responsabilità, no? E anche di paura, devo dire la verità. No, dopo un successo, insomma, ti viene sempre paura, e però abbiamo cercato di non tradire quello che è il messaggio forte, cioè parlare del dolore senza paura, cercando di vedere sempre l'aspetto che c'è dietro, no? Lo sappiamo tutti, purtroppo, che comunque nei momenti duri della vita ti scatta qualcosa che fa uscire da noi il meglio. Ma qual è la forza di questa nuova serie? Ce lo dice in 6 secondi netti Daniel Lorenz Alviar Tenorio, il ragazzino che interpreta Kiko, un nuovo arrivato della banda. Punto di forza è il legamento tra le amicizie e la verità. E tra le novità di questa nuova serie c'è l'ingresso di un'altra giovane protagonista, Nina, una ragazza ribelle e solitaria, interpretata dalla 17enne Denise Tantucci, che è la nuova arrivata nella squadra. A differenza della prima serie, adesso i braccialetti rossi si trovano a confrontarsi con nuovi ragazzi, nuove malattie e anche nuove dinamiche, quindi ci sarà una maturazione dei loro personaggi nel confrontarsi con altri. Ci sono delle aspettative da non deludere, quindi non dico che è una pressione, però senti il peso di una responsabilità, questo penso un po' in tutti i lavori. Comunque il set era assolutamente tranquillo e piacevolissimo. Ci sono anch'io, porto due lacrime scese in ritardo, la strada più breve si impara al ritorno. Ci sono anch'io, ai bordi del campo ad alzare un saluto, ho corso per tutta la notte per dirti che il buio è diverso dal vuoto. È tutta per te. Questo è uno dei 13 brani che accompagnano Braccialetti Rossi 2. Si intitola Il bene si avvera. La colonna sonora è firmata da Nicolò Agliardi anche questa volta e abbiamo il piacere di averlo qui. Buongiorno Nicolò. Buongiorno Enrico, piacere mio. Tu mi sembri molto coinvolto non solo professionalmente ma anche umanamente in questa vicenda, vero? Sì, insospettabilmente è andata così, ma credo che un progetto di questo genere sarebbe stato molto difficile da affrontare in maniera diversa, perché quando sono stato chiamato per questa strana avventura credo che i codici e la grammatica di quello che sarebbe accaduto erano già piuttosto chiari, nel senso che era difficile sottrarsi a un coinvolgimento emotivo, emozionale, umano davanti a questa storia, proprio perché, come sai, è una storia che nasce delle fondamenta molto più che verosimili, direi, certo, proprio vere. Senti, tu hai incontrato Albert Spinosa? Sì, siamo anche diventati amici. Oh, allora, vedi, allora devi... Che tipo è? Albert è un tipo gioioso, misterioso, è un tipo molto timido, ma molto consapevole di ciò che la fortuna gli ha dato, gli ha tolto e gli ha restituito. Ed è bello perché è un ragazzo, un uomo, diciamo, pure della mia età, 40 anni, è un uomo consapevole di come è riuscito a riscattarsi dal dolore e dalla fatica, ma lo ha fatto davvero con una grande poesia. Cioè, io penso che in Albert ci sia la grande lealtà nel raccontare una vicenda che sicuramente poi gli ha portato tanto, gli ha portato anche tanto intrattenimento, scusami il termine, certo, ma come ti dico, mi piace con te parlare chiaro, ma è un uomo forte, è un uomo coraggioso che non ha paura delle sue fragilità, non ha paura della sua storia, anzi con grande fierezza e spalle larghe la racconta. Grazie Nicolò, sei stato a te, Enrico, gentilissimo. Un abbraccio. Un abbraccio. Albert Spinosa ha cambiato la vita a moltissimi ragazzi malati, ma anche a tanti ragazzi sani. Ogni volta che parla o scrive di speranze di vita, non può non toccare un'altra parola tabù. Perché abbiamo iniziato la nostra puntata con la parola cancro e finiremo con la parola morte, senza paura. Il cancro mi ha dato una grande lezione. Mi è passata la paura di morire. Credevo che non appena fossi tornato alla vita normale sarebbe riemersa. Invece è successo l'esatto opposto. A tutt'oggi non ho nessuna paura di morire. E questo si deve agli anni passati a lottare contro la malattia, a stretto contatto con la morte. Non puoi farti passare la paura di qualcosa se eviti il discorso. Devi pensarci come a una cosa naturale, che ti succederà, e non come a un evento negativo. La morte non è qualcosa di terribile. La morte è sempre dignitosa, ti dà un finale. Come sceneggiatore, la prima cosa che dico ai miei allievi è che per ottenere un buon lavoro devi sapere come finirà il film, devi avere in testa il finale. Devi pensare alla morte come a qualcosa di positivo. La gente celebra la vita, festeggia i battesimi. A maggior ragione dovrebbe festeggiare la morte delle persone care. rendendo onore al loro ingresso nell'universo del ricordo. Beh, in effetti, se pensate che tutte le biografie antiche, latine, greche, dedicano ai personaggi metà dello spazio per raccontare come hanno vissuto e l'altra metà per raccontare come sono morti. Comunque, la vita di Albert prosegue, piena di sogni e di progetti ancora da realizzare, in una città viva come la sua, Barcellona. Bueno, yo me despierto muy tarde porque siempre voy a escribir... Mi alzo molto tardi perché scrivo di notte. Scrivo fino alle 3, le 4, e mi alzo a mezzogiorno o a luna. Poi sto con i miei amici, con la mia famiglia. Mi piace nuotare tranquillamente per un'oretta, andare al cinema o anche al teatro. Barcellona è uno dei posti più belli per vivere. Mi entusiasma, mi piace molto. Vivo lì con la mia fidanzata e sono molto felice. Con mia novia e ahí estoy, muy feliz. E questa è la classica storia che fa bene ascoltare. Le storie che ti aiutano a vivere meglio, con più filosofia. Storie magari sconosciute o di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, fare cose che hanno lasciato un segno. Perché ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto come un falco, come un gabbiano. Se volete mandarci commenti oppure segnalarci vite sulle quali puntare la nostra attenzione e il mio microfono, fatelo. Scriveteci a ilfalcoelgabbiano@radio24.it oppure su Twitter, Facebook, insomma, se mi volete trovare ci riuscite. A domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso e Marta Cagnola.